201. Pallottole di patate ripiene. Patate grammi 300, parmigiano 2 cucchiaiate ben colme, uova numero 2, odore di noce moscata, farina quanto basta. Lessate le patate, sbucciatele e passatele calde dallo staccio sopra un velo di farina. Fate una buca sul monte delle patate, salatele, date loro l'odore della noce moscata e versateci le uova e il parmigiano. Poi, con meno farina che potete, formatene un pastone morbido e lungo, che dividerete in 18 parti, ed ognuna di queste con le dita infarinate fate una piccola buca per riempirla con un battuto di carne. Tirateci sopra i lembi per coprirlo, e con le mani infarinate formate palle rotonde che friggerete nello strutto o nell'olio, mandandole in tavola per contorno a un fritto di carne. È un piatto appariscente, buono e di poca spesa, perché il ripieno potete formarlo anche con le rigaglie di una sola gallina, quando vi capita. Se vi comprenderete la cresta, il ventriglio lessato prima e le uova non nate, tirate a cottura con un piccolo battutino di cipolle e burro, unendovi dopo una fettina di prosciutto grasso e magro tagliato a dadini e tutto il resto tritato. Se non avete la gallina, formate il ripieno in altra maniera.